Incontri di Gianfranco Fabi. Farà piacere un bel mazzo di rose e anche il rumore che fa il cielo fa, ma una birra fa gola di più in questo giorno appiccicoso di caucciù. Sono seduto in cima a un paracarro e sto pensando agli affari miei. Tra una moto e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. Oh, quanta strada nei miei sandali. Quanta strada nei miei sandali con Bartali di Paolo Conte. Buonasera e buon anno a quanti ci ascoltano. Buonasera e buon anno a Marco Fortis. Buonasera. Ecco, prima di presentare Marco Fortis, diciamo perché Bartali, perché è la storia di un grande ciclista, anche se non è stagione di bicicletta questa, siamo all'inizio del nuovo anno. Però Marco Fortis, oltre che economista, è anche un appassionato di bicicletta. Esatto. Un appassionato di bicicletta, ma in questa stagione è in ripostiglio oppure anche d'inverno? Beh, un paio di volte alla settimana un ciclomatore deve uscire anche d'inverno se non vuol perdere l'allenamento. E quindi appassionato anche d'inverno di bicicletta. Marco Fortis, economista, vicepresidente della Fondazione Edison, collaboratore del Sole 24 Ore. Approfittiamo appunto di questo incontro per fare un po' un bilancio di quest'anno, di quest'annata ancora difficile per l'economia italiana. Un anno difficile perché la domanda interna è stata pesantemente colpita dall'austerità. Questo ha determinato per un paese che è un importante produttore come l'Italia una forte caduta della produzione industriale e anche di servizi, e quindi il PIL ne ha risentito molto negativamente. Le esportazioni stanno andando in modo discreto nonostante il rallentamento che comunque c'è stato nel commercio mondiale nel 2013, e quindi hanno dato un contributo, ma non può essere sufficiente, perché quando un paese perde così tanta domanda interna in due anni poi fatica a riprendersi, e fatica a riprendersi anche l'occupazione. Ecco, ma questo calo dei consumi è dovuto solamente all'austerità, dovuto anche ad altri fattori, la sfiducia verso il futuro, il fattore demografico che di fatto fa diminuire le persone, i giovani soprattutto all'interno del sistema italiano, quindi ad elementi strutturali, certamente oltre a una certa austerità che c'è stata. Beh, indubbiamente sono tanti i fattori che influiscono sul calo dei consumi, ma indubbiamente la crisi economica e l'austerità hanno pesato in maniera drammatica in questi ultimi due anni e mezzo, soprattutto considerando che la media del calo dei consumi non tiene conto dell'effettivo impatto sulle produzioni italiane, in quanto molte produzioni italiane di beni di consumo durevoli e non durevoli, prendiamo per esempio il mobile, prendiamo per esempio i materiali per l'edilizia, prendiamo per esempio l'abbigliamento, le calzature, hanno risentito di cali molto più forti del calo medio dei consumi, e questo ha impattato ancora di più sulla nostra produzione industriale. Ecco, lei è stato abbastanza critico da tempo sull'austerità. Come mai è critico verso questa politica che l'Italia è costretta in pratica ad attuare perché ha esagerato forse nelle spese pubbliche negli anni passati? Ma che l'Italia abbia esagerato con la spesa pubblica negli anni passati è fuori di discussione, tant'è vero che a metà degli anni 90 ci presentavamo con un debito pubblico sia in valore assoluto, sia in rapporto al PIL e sia in rapporto anche a quella che è la ricchezza finanziaria netta delle famiglie, che è poi il polmone finanziario che sorregge l'intero impalcatura finanziaria di un paese, perché le famiglie finanziano le banche, acquistano direttamente o indirettamente titoli di Stato anche attraverso il sistema bancario assicurativo di cui sono delle finanziatrici. Quindi a metà anni 90 effettivamente presentavamo un profilo disastroso sul piano dei conti pubblici. Quando è scoppiata la grande crisi dei debiti sovrani nel 2010-2011, soprattutto nel 2011 quando siamo entrati nel mirino degli attacchi speculativi, l'Italia non presentava affatto dei conti pubblici squilibrati rispetto al resto dell'Europa. Ricordiamo sempre che noi abbiamo oltre 2.000 miliardi di debito pubblico, ma la Germania ne ha 2.150, la Francia è avviata ai 2.000 e la Gran Bretagna sa per raggiungere la Francia a sua volta. Quindi non si capisce per quale ragione solo l'Italia tra i grandi paesi debba avere questo marchio che ha ereditato e giustamente aveva ereditato prima l'infamia di essere un paese debitore, mentre gli altri sembrano virtuosi. Beh, non si capisce per quale ragione, però qualcuno forse potrebbe suggerire il fattore stabilità politica. Questo sì, però bisogna anche considerare che nel momento in cui nel 2011 abbiamo avuto a fine 2011 un cambio di governo e l'instabilità politica e la perdita di fiducia erano attribuite al governo Berlusconi, abbiamo poi avuto 2 anni di governi più o meno di larghe intese con delle maggioranze che hanno sostenuto dei tecnici, dei politici tecnici, hanno sostenuto dei governi che avevano e che hanno goduto di una certa fiducia internazionale, e non di meno le critiche che vengono fatte all'Italia sono poi sempre le stesse, cioè quello di avere un debito pubblico PIL che cresce molto, senza considerare che dal terzo trimestre del 2008 al secondo trimestre del 2013 il debito pubblico italiano, espresso in termini monetari, cioè in valute nazionali, è quello cresciuto percentualmente di meno nell'Europa 28 dopo quello della Svezia. Quindi è cresciuto meno di quello della Germania. Però continuiamo a dover dimostrare al commissario Rehn che il nostro debito deve scendere di più. Ecco, quindi è anche una capacità forse di presenza politica, di far valere le proprie ragioni che l'Italia dovrebbe conseguire a livello europeo. Beh, per far valere le proprie ragioni innanzitutto bisogna dimostrare di essere in grado di rispettare le regole dell'Europa, perché altrimenti si fa la figura di quelli che contestano le regole senza essere capaci di rispettarle. Ma quando un paese come l'Italia riesce per 3 anni consecutivi a stare sotto il 3% nel rapporto deficit-PIL, mi sembra che abbia dato ampie dimostrazioni di essere in grado di rispettare le regole e quindi può cominciare a sedersi al tavolo europeo e a chiedere che vengano modificate le storture più evidenti dell'impalcatura ragionieristica su cui si basa oggi l'Unione Europea e soprattutto l'Eurozona. Ci sono dei parametri che sono completamente sconclusionati. Per esempio? Beh, per esempio il Fiscal Compact è un'assurdità ancora più grande dei parametri di Maastricht. Ecco, il Fiscal Compact è l'accordo per cui i paesi dal 2015, peraltro mi pare, dovrebbero attuare delle politiche di bilancio estremamente rigorose. L'Italia dovrebbe tagliare, mi pare, tra i 30 e i 40 miliardi di spesa pubblica all'anno. Ma che bisogna tagliare la spesa pubblica è fuori di dubbio, perché, ripeto, abbiamo 4 grandi paesi in Europa che stanno intorno ai 2.000 miliardi di debiti in termini di euro ciascuno. Quindi né la Germania, né l'Italia, né la Francia, né la Gran Bretagna possono continuare ad avere tutto questo stock di debito. Perlomeno non devono accrescerlo di più di quanto non sia già diventato grande. E soprattutto devono dare dimostrazione di avere cambiato politica in materia fiscale, cioè di non sperperare più il denaro pubblico, di saper tagliare le spese improduttive. Però mi sembra abbastanza assurdo che l'Europa da sola, nel contesto internazionale, si incaponisca in una politica di riduzione forzata del debito pubblico, quando le altre grandi economie avanzate non lo fanno. Gli Stati Uniti crescono perché non si sono posti un obiettivo così draconiano di riduzione del debito pubblico, pur avendo raggiunto ormai un rapporto debito-PIL che è superiore a quello che l'Italia aveva prima della crisi. Cioè l'Italia prima della crisi aveva ancora il marchio di infamia di essere un paese debitore, ma stava al 104% del rapporto debito-PIL. Gli Stati Uniti oggi sono arrivati al 110%, ma sono del tutto considerati un paese tranquillo, sicuro, un po' perché hanno il dollaro, un po' perché sono potenti, ma non di meno andrebbero criticati lo stesso come veniva criticata l'Italia già prima di questa crisi. Ecco, ma in questa prospettiva l'Europa, soprattutto la BCE, non potrebbe diventare come gli Stati Uniti, cominciare a stampare un po' di euro? Tra l'altro l'euro è una valuta forte in questo momento, anche a livello internazionale, che certamente mette qualche difficoltà alle industrie esportatrici. Ma mi sembra difficile che la BCE possa fare di più di quello che abbia già fatto. Bisognerebbe fare sotto questo profilo un monumento a Mario Draghi, perché in fondo è stato lui a salvare l'euro, non sono stati i politici europei che hanno dimostrato uno scarso spirito di squadra, hanno soccorso la Grecia in ritardo, hanno lasciato ingigantire un problema e soprattutto hanno spostato la sfiducia del mondo, che era tutta concentrata sulla finanza americana, che aveva dato ampie dimostrazioni di essere un colabrodo nel corso del periodo 2007-2008, hanno spostato la sfiducia mondiale di nuovo sull'Europa, che invece stava prima dello scoppio della crisi, acquistando credibilità anche agli occhi dei paesi emergenti, dei paesi dotati di grandi fondi strategici che stavano spostando i loro investimenti sull'euro. Quindi un doppio errore strategico, quello dell'Europa, che ha permesso, non spegnendo subito il focolaio della Grecia, di far tornare un'ondata di sfiducia sull'Europa e invece far tornare un'ondata di fiducia sugli Stati Uniti. Certo, tornerà la fiducia del 2014, lo vedremo tra poco. Ci fermiamo un attimo per le notizie sul traffico. Incontri. Oh, quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in gita, e i francesi ci rispettano. E i francesi si rispettano ancora con Bartali di Paolo Conte. Riprendiamo il nostro incontro con Marco Fortis, economista, vicepresidente della Fondazione Edison, editorialista del Sole 24 Ore del Messaggero. Abbiamo parlato nella prima parte di questo 2013, molto difficile per i consumi in Italia, per la caduta ancora una volta del PIL, per le difficoltà dell'Italia di farsi rispettare a livello europeo. E vediamo un po' come sarà questo 2014. L'Italia, comunque, dicevamo, Marco Fortis, ha basi solide dal profilo economico, soprattutto dal profilo produttivo. L'industria italiana resta un'industria competitiva. Sì, c'è sempre, e anche questa volta pure in Europa, questa contrapposizione tra i paesi considerati virtuosi da una parte, l'Italia che non lo è, ma anche tra i paesi considerati competitivi, mentre l'Italia viene percepita come un paese poco competitivo. In realtà va attentamente distinta la questione tra sistema paese, che presenta delle evidenti inefficienze, basti pensare al peso della burocrazia, alla quantità, alla presenza della politica nel sistema economico, anche attraverso i servizi pubblici locali, una miriade di sovrastrutture che pesano nell'economia e nel frattempo favoriscono anche la corruzione e le clientele. Basti pensare all'incertezza del diritto, ai costi dell'energia, alle infrastrutture. Quindi ci sono dei limiti evidenti che il sistema paese ha, ma proprio per questo andrebbe ancor più apprezzato lo sforzo che invece le imprese, che lavorano con le braccia legate dietro la schiena, fanno per tenere in piedi la nostra economia, con un export che funziona, che è andato molto in questi ultimi anni anche verso i paesi emergenti. Noi abbiamo una quota di export extra UE più alta di quella della Germania, per esempio. E quindi dobbiamo considerare l'importanza di avere, di tutelare un sistema produttivo così efficiente, così valido, pur in presenza di condizioni di sistema paese negativo. Siamo avviati quest'anno a un surplus commerciale con l'estero nel settore manifatturiero che sarà tra i 105 e i 110 miliardi di euro. È un record storico. Qualcuno dice: ma il surplus sta ingigantendosi perché sono calate le importazioni a seguito delle austerità. Non è così. Se anche immaginassimo di importare 20 miliardi in più, cioè di tornare ai livelli pre-crisi, sarebbe lo stesso il più grande record di tutti i tempi del nostro surplus mondiale. Ed è un export basato anche su prodotti di alta tecnologia, prodotti innovativi, quindi anche su questo fronte l'Italia sa difendersi. Sicuramente, e sotto questo profilo è abbastanza incredibile che l'ultimo rapporto sugli squilibri macroeconomici dell'Italia elaborato dalla Commissione europea descrive il nostro paese come un paese che ha una specializzazione sbagliata, simile a quella di un paese emergente, incapace di fare innovazione con imprese troppo piccole per farsi valere nel mondo. È assurdo tutto questo, non tiene conto dei grandi cambiamenti che ci sono stati negli ultimi 10 anni. Il nostro surplus commerciale è fatto ormai per oltre i 3/4 da settori di media ed alta tecnologia, non più solo da abbigliamento, da calzature, mobili, settori che comunque sono sempre molto importanti per noi perché abbiamo perso i bassi valori aggiunti, ma siamo nel livello estremo del lusso. E anche avere questi prodotti di lusso assieme alle tecnologie fa del nostro mix esportativo un'arma vincente, perché i paesi emergenti chiedono sia le macchine per produrre, ma i ceti affluenti e ricchi dei paesi emergenti chiedono anche i prodotti maggiormente di maggiore qualità e di maggior lusso che esistano al mondo, e questi sono sicuramente quelli made in Italy. Ecco, lei proprio sulla competitività del made in Italy ha elaborato un indice particolare, si chiama l'indice Fortis Corradini. Sì, è un indice che abbiamo costruito alla Fondazione Edison e che utilizza una banca dati gigantesca in base alla quale, ma soprattutto grazie ad un algoritmo che abbiamo sviluppato, possiamo interrogare il sistema e chiedere in qualunque momento per ciascun paese quanti primi, secondi, terzi posti abbia per surplus commerciale a livello mondiale sulla base di circa 5.100 prodotti. E l'Italia quindi, come si colloca? Beh, l'Italia si colloca in una maniera molto positiva perché abbiamo circa 1.000 tra primi, secondi e terzi posti per surplus commerciale mondiale, cioè abbiamo 1.000 prodotti in cui siamo leader a livello mondiale, in cui combattiamo dalle prime tre posizioni, e questi 1.000 prodotti valgono un quantitativo molto elevato di soldi, valgono oltre 180 miliardi di dollari, quindi evidentemente il nostro paese è in grado di primeggiare in molte specialità. Non abbiamo certamente diciamo in canna i colpi giganteschi che hanno paesi come la Corea, che sono magari leader incontrastati in alcuni ambiti come la telefonia cellulare, i prodotti dell'ITC, ma noi comunque siamo in grado di avere tantissime nicchie ad altissimo contenuto tecnologico, soprattutto nel campo della meccanica non elettronica, che è diventato il nostro fiore all'occhiello a livello mondiale. Solo per fare un esempio, i lettori di codice a barre sono italiani in tutto il mondo. Sì, e non si vedono che sono italiani. Non si vedono che sono italiani, ma un'impresa italiana è tra le prime due o tre al mondo che sono in grado di operare in questo settore. Così come le macchine per imballaggio, tutti i pacchetti di sigarette mondiali sono impacchettati da macchine italiane. Il nostro distretto bolognese emiliano delle macchine per imballaggio ha superato ormai per dinamismo, capacità di export, saldo commerciale, il distretto del Baden-Württemberg tedesco, che era storicamente sempre stato il leader in questo settore. Quindi ci sono tanti prodotti in cui l'Italia batte la Germania. Su circa 4.000 prodotti manufatturieri, sempre secondo il nostro indice, l'Italia ha un surplus commerciale più alto della Germania in ben 1.200 prodotti. Quindi cosa possiamo augurare a questa economia italiana che nel sommerso, anche se poi ufficialmente sono aziende, grandi aziende, piccole e grandi aziende che lavorano all'aperto, però sono un po' sommerse di fronte all'opinione pubblica. Ecco, possiamo forse augurare per il 2014 di riuscire a imporsi anche come immagine, l'Italia può riuscire a imporsi come immagine positiva di un paese in cui non ci sono solo problemi ma ci sono anche soluzioni. Io credo che infatti l'Italia abbia più che di qualunque altra cosa un grandissimo debito di immagine in questo momento. Deve recuperare su questo fronte, perché i cittadini italiani devono essere più convinti che non vivono in un paese completamente scassato come si pensa, ma che ha delle grandi potenzialità, e anche l'Europa deve accorgersi e gli investitori, i mercati devono accorgersi che il nostro paese non è quello che è stato rappresentato in questi ultimi tre anni di crisi economico-finanziaria. È un paese che ha delle grandi possibilità e soprattutto ha, sia sul piano produttivo che sul piano del risparmio privato, due straordinari pilastri che possono sostenerlo nel futuro. Ecco, il risparmio privato, lei insiste molto sul fatto che l'Italia ha una grande solidità per il risparmio delle famiglie. E su questo fronte però le famiglie, giustamente, l'hanno accumulato, però vorrebbero anche difenderlo, non vorrebbero... Sicuramente, ma il modo per difendere il risparmio delle famiglie non è cacciarsi in una recessione stupida come quella in cui ci siamo cacciati in questi ultimi due anni, solo per abbattere un totem che è quello del rapporto debito-PIL, che non vuol dire assolutamente niente oggi. Basta fare un esempio pratico: quando è scoppiata la crisi del 2011, l'Italia aveva un rapporto tra debito pubblico e ricchezza finanziaria netta delle famiglie più basso di quello della Germania. E questo dovrebbe far riflettere, perché il rapporto debito-PIL è una finzione statistica, serve solo per mettere un denominatore che abbia un qualunque senso, che dia un'idea di grandezza dell'economia sotto il debito pubblico. Ma in realtà il PIL non ha mai pagato il debito pubblico, il PIL al massimo serve per poter estrarre dal reddito annuo le tasse che sono utili per pareggiare il bilancio di quell'anno. Ma se uno vuol dimostrare di avere uno stock finanziario alle spalle che possa garantire lo stock del debito, non può utilizzare il PIL. Certo, delle riserve, quindi in questo senso le riserve sono utili anche se non vengono utilizzate, sono utili appunto come le riserve della Banca d'Italia, che sono una dimostrazione di garanzia. L'importante è che noi queste riserve non le distruggiamo con una politica sbagliata, perché la nostra ricchezza finanziaria netta delle famiglie, che era nel 2007 più alta di quella della Germania, oggi è stata superata da quella della Germania. Perché quella della Germania è cresciuta di quasi 400 miliardi, la nostra è calata per pagare tasse, anche per la caduta in borsa dei titoli, certo, e delle azioni, abbiamo avuto una perdita di ricchezza finanziaria netta superiore ai 200 miliardi di euro. Ecco, ci avviamo alla conclusione per questo 2014 che abbiamo di fronte. Quali sono da una parte le sue previsioni, dall'altra i suoi auspici? Le previsioni sono che la ripresa dell'Eurozona continuerà a essere piuttosto modesta e anche la stessa ripresa italiana non potrà che essere estremamente modesta. Abbiamo toccato il fondo ma risaliamo con enorme lentezza. Perché? Perché purtroppo è stato creato uno squarcio nel sistema sociale, c'è troppa disoccupazione che non verrà riassorbita se non in tempi lunghissimi e quindi questo non permetterà ai consumi di ripartire. Ma nemmeno i consumi di altri paesi ripartiranno tanto facilmente. Se uno guarda la dinamica dei consumi, oggi l'Olanda sta quasi peggio dell'Italia pur non avendo fatto l'austerità, perché le famiglie olandesi sono super indebitate, hanno mutui per la casa pari al 100% del PIL. In Germania non è che la domanda interna, nonostante i tassi sotto zero, viaggi, e la Germania, pur essendo competitiva, ricordiamolo, ha un PIL che cresce dello 0,5%. E quindi l'auspicio per questo anno che sta arrivando? L'auspicio è più che altro per il nostro paese di riuscire a sfruttare il semestre europeo partendo da una, diciamo, credibilità riconquistata e che possibilmente andrebbe anche accresciuta con un'opera molto intensa da parte del nostro governo di convincimento dei mercati, delle istituzioni finanziarie. Cioè non ci si può presentare al mondo solo con sempre con queste quattro statistiche che sono la crescita del PIL e il rapporto debito-PIL. Tiriamo fuori anche il resto che abbiamo, certo, e cerchiamo di spiegarci un po' meglio i mercati, perché nessuno l'ha fatto in questi ultimi anni. Quindi cerchiamo di non farci del male da soli e soprattutto di avere fiducia e capacità di imporre anche la nostra fiducia al resto dell'Europa almeno. E poi di riuscire, proprio perché abbiamo rispettato le regole, abbiamo fatto i compiti a casa, di chiedere qualche, non la luna, ma qualche piccola modifica alla politica economica europea affinché non ci si vada a cacciare in un nuovo ginepraio. Il fiscal compact è una cosa che è quasi irrealizzabile non solo da parte dell'Italia ma da parte del 95% dei paesi che appartengono all'Unione Europea. Allora, guardando un po' alla presidenza italiana dell'Europa che ci sarà in questo 2014, cerchiamo di essere un po' ottimisti, di guardare con fiducia, facendoci gli auguri di buon anno a Marco Fortis, buon anno a tutti, a quanti ci ascoltano, buon anno e grazie anche a Peter Descape in regia e a Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e buon anno.